Cotard, docile, aveva detto alla padrona: Mettetevi sottosopra in questo modo e domani mi farete un bel febbrone. Così come avrebbe detto alla cuoca: Domani mi farete dell'animella. Non potendo guarire, la medicina si preoccupa di cambiare il senso dei verbi e dei pronomi. Il signor Verdurin fu felice di constatare che Saniette, nonostante gli sgarbi subiti 2 giorni prima, non aveva disertato il piccolo clan. In effetti, i due Verdurin avevano contratto nell'ozio istinti crudeli cui le grandi occasioni troppo rare non bastavano più. Erano sì riusciti a far litigare Odette con Swann, Brichot con l'amante. Avrebbero ricominciato con altri, naturalmente, ma non tutti i giorni se ne presentava l'opportunità. Mentre, grazie alla sua sensibilità fremente, alla sua timidezza piena di timori e incline al panico, Saniette offriva loro uno svago quotidiano. Così, per paura che staccasse, ci si premurava di invitarlo con parole amabili e carezzevoli, come fanno al liceo i ripetenti, in caserma gli anziani nei confronti di un pivello che blandiscono per potersi impadronire di lui, con l'unico scopo di provocarlo e infliggergli delle angherie quando non potrà più sfuggire. Soprattutto ricordò a Brichot Cottard, che non aveva sentito Verdurin, acqua in bocca con Madame Verdurin. Siate senza timore, o Cottard, avete a che fare con un saggio, come dice Teocrito. Del resto, signor Verdurin ha ragione, a cosa servono i nostri lamenti? Aggiunse Brichot, giacché capace d'assimilare delle forme verbali e le idee che essi gli apportavano, ma privo di finezza, aveva ammirato nelle parole di Verdurin il più coraggioso stoicismo. In ogni caso, è un grande talento che scompare. Come? Parlate ancora di Deschamps? Esclamò il signor Verdurin, che ci aveva preceduti e non vedendoci arrivare, era tornato sui suoi passi. Sentite, disse a Brichot, non bisogna mai esagerare. Che sia morto non è una buona ragione per farlo diventare il genio che non era. Suonava bene, d'accordo, soprattutto qui da noi aveva trovato l'ambiente ideale. Trapiantato, non esisteva più. Mia moglie se n'era infatuata e aveva decretato la sua fama. Sapete com'è fatta? Dirò di più. Nell'interesse stesso della sua fama, è morto al momento opportuno, a giusta cottura, come saranno, spero, le damigelle di Caen. Passate alla griglia secondo le ricette incomparabili di Pampie, sempre che non abbiate deciso di restare in eterno con le vostre geremiadi in questa casba esposta a tutti i venti. Non vorrete farci crepare tutti solo perché Deschamps è morto, tanto più poi che da un anno, prima di dare un concerto, era costretto a eseguire scale su scale per ritrovare momentaneamente, del tutto momentaneamente, la sua agilità. Del resto ascolterete stasera, o almeno incontrerete, perché il briccone dopo pranzo lascia volentieri l'arte per le carte, un artista di ben altra levatura rispetto a Deschamps, un ragazzo che mia moglie ha scoperto come aveva scoperto Deschamps, e Paderewski e tutti gli altri. Morel. Non è ancora arrivato quel bel tipo. Dovrò mandare una carrozza all'ultimo treno. Viene con un vecchio amico di famiglia che ha incontrato e che lo scoccia da morire. Ma sarebbe costretto, se no, per non avere storie con suo padre, a restare ad Doncières, a fargli compagnia. Il barone di Charlus. I fedeli entrarono. Il signor Verdurin, rimasto indietro con me mentre mi toglievo il soprabito, mi prese scherzosamente il braccio, come fa ad un pranzo un padrone di casa che non può darvi un'invitata ad accompagnare a tavola. Avete fatto buon viaggio? Sì, il signor Brichot mi ha insegnato cose molto interessanti. Risposi pensando alle etimologie e perché avevo sentito dire quanto i Verdurin ammirassero Brichot. M'avrebbe stupito che non vi avesse insegnato qualcosa, osservò il signor Verdurin. È così riservato, parla così poco delle cose che sa. Il complimento non mi parve molto calzante. Sembra un uomo affascinante, dissi. Squisito, delizioso, per niente pedante, estroso, leggero. Mia moglie l'adora, io anche. rispose Verdurin con enfasi artificiosa e come se recitasse una lezione. Soltanto allora capii che, riferendosi a Brichot, era stato ironico, e mi chiesi se il signor Verdurin, dai tempi lontani di cui avevo sentito parlare, non si fosse liberato della tutela della moglie. Lo scultore rimase sbalordito, sentendo che Verdurin acconsentivano a ricevere il signor di Charlus. Mentre nel Faubourg Saint-Germain, dove Charlus era così conosciuto, non si parlava mai dei suoi costumi, ignorati dalla maggioranza, oggetto di dubbi per altri, propensi a credere piuttosto ad amicizie esaltate ma platoniche, ad imprudenze e accuratamente dissimulati, infine, dai soli che ne fossero al corrente, i quali alzavano le spalle quando qualche malevola gaillardon azzardava un'insinuazione. Tali costumi, noti appena a pochi intimi, erano invece oggetto di quotidiana denigrazione fuori dell'ambiente in cui il barone viveva, come certi colpi di cannone che si sentono solo dopo l'interferenza d'una zona silenziosa. D'altronde, negli ambienti di borghesi e di artisti nei quali egli passava per l'incarnazione stessa dell'inversione, la sua altissima posizione mondana, la sua grande nascita, erano del tutto ignorate, per un fenomeno analogo a quello per cui, fra i romeni, il nome di Ronsard è conosciuto come quello di un gran signore, mentre è sconosciuta la sua opera poetica. Per di più, la nobiltà di Ronsard si fonda in Romania su un errore. Allo stesso modo, se nel mondo dei pittori, degli attori, il signor di Charlus aveva una così cattiva reputazione, era perché lo si confondeva con un certo conte Leblois de Charlus, che con lui non aveva nessuna parentela, o forse solo molto alla lontana, e che era stato arrestato, probabilmente per errore, in una retata di polizia rimasta famosa. Insomma, tutte le storie che correvano sul suo conto erano applicabili al falso signor di Charlus. Molti prostituti giuravano di aver avuto rapporti con il signor di Charlus ed erano in buona fede, credendo che il falso Charlus fosse il vero, e forse il falso favoriva, un po' per ostentazione di nobiltà, un po' per dissimulazione di vizio, una confusione che per il vero, il barone a noi noto, fu a lungo pregiudizievole, e più tardi, quando ebbe disceso la china, gli diventò comoda, perché permise anche a lui di dire «non sono io». Per il momento, in effetti, non era di lui che si parlava. Infine, cosa che incrementava la falsità dei commenti intorno a un fatto vero, i gusti del barone, Charlus era stato amico intimo e assolutamente puro di un autore che nell'ambiente teatrale aveva non si sa perché questa reputazione e non la meritava affatto. Quando li si vedeva insieme a qualche prima, si diceva si capisce, così come si credeva che la duchessa di Gamain avesse relazioni immorali con la principessa di Parma. Leggenda indistruttibile, giacché sarebbe svanita solo grazie a una vicinanza con quelle due grandame, cui le persone che la divulgavano non sarebbero verosimilmente mai pervenute se non sbirciandole a teatro e calunniandole con l'abbonato della poltrona accanto. Dai costumi del signor di Charlus, lo scultore concludeva che la posizione mondana del barone dovesse essere assai scadente, con tanto minore esitazione in quanto egli non possedeva, sulla famiglia di Charlus, sul suo titolo, sul suo nome, nessun genere di informazione. Come Cottard era convinto che tutti sapessero che il titolo di dottore in medicina vale zero e quello di interno d'ospedale qualcosa, così i personaggi del gran mondo si sbagliano, figurandosi che tutti possiedano, sull'importanza sociale del loro nome, le nozioni che ne hanno loro stessi e quelli del loro ambiente. Il principe d'Agrigento passava per un avventuriero agli occhi di un fattorino di club al quale doveva 25 luigi e riacquistava la propria importanza solo nel Faubourg Saint-Germain, dove aveva tre sorelle duchesse, giacché non è sulle persone modeste, ai cui occhi conta ben poco, ma sulle persone brillanti, al corrente di chi egli sia, che il gran signore produce qualche effetto. Il signor di Charlus, del resto, si sarebbe reso conto quella sera stessa che il padrone non aveva, sulle più illustri famiglie ducali, che nozioni poco approfondite. convinto che i Verdurin stessero per fare un passo falso, lasciando che nel loro salotto così scelto si insinuasse un individuo tarato, lo scultore si credette in dovere di prendere da parte la padrona. «Siete sicuramente in errore. Del resto io non credo mai a queste cose. Poi, se anche fosse vero, vi dirò che non sarebbe certo compromettente per me», replicò Madame Verdurin, furiosa, perché, essendo Morel l'elemento di spicco dei mercoledì, teneva innanzitutto a non scontentarlo. Quanto a Cottard, non poté esprimere la sua opinione, perché aveva chiesto di salire un istante a sbrigare una faccenduola nel Buen Retiro e subito dopo a scrivere nella camera del signor Verdurin una lettera urgentissima per un malato. Un grande editore di Parigi, venuto in visita e convinto che l'avrebbero pregato di restare, se ne andò brutalmente, a gran velocità, rendendosi conto di non essere abbastanza elegante per il piccolo clan. Era un uomo alto e robusto, molto scuro, studioso, con qualcosa di tagliente. Faceva pensare a un tagliacarte d'ebano. Madame Verdurin, che, per accoglierci nel suo immenso salotto dove trofei di graminacee, di papaveri, di fiori di campo colti quello stesso giorno s'alternavano con lo stesso motivo dipinto in monocromia due secoli prima da un artista di gusto squisito, s'era alzato un attimo da una partita a cui era intenta con un vecchio amico. Ci chiese il permesso di finirla in due minuti conversando intanto con noi. D'altra parte, quel che le dissi delle mie impressioni non le fece piacere che a metà. Innanzitutto mi pareva scandaloso che lei e il marito rincasassero ogni giorno molto prima dell'ora di quei tramonti che passavano per così belli, visti dalla scogliera e più ancora dalla terrazza della Raspellière, quei tramonti per i quali io avrei percorso chilometri e chilometri. «Sì, è incomparabile», disse distrattamente Madame Verdurin, gettando un'occhiata verso le immense intelaiature delle portafinestre. «Lo vediamo di continuo, eppure non ce ne stanchiamo mai», e tornò con lo sguardo alle sue carte. Ora il mio stesso entusiasmo mi rendeva esigente. Mi rammaricavo di non vedere dal salotto le rocce di Darnetal, che a detta di Alstir diventavano incantevoli nel momento in cui riflettevano tanti colori. «Da qui non potete vederle, bisognerebbe andare in fondo al parco, alla vista della baia. Dalla panchina che c'è là si abbraccia tutto il panorama, ma non potete andare da solo, vi perdereste. Vi ci accompagnerò, se volete», aggiunse fiaccamente. «Ma no, cosa dici? Non ti bastano i dolori che ti sei presa l'altro giorno? Vuoi prenderne di nuovi? Tornerà, vedrà la vista della baia un'altra volta». Non insistetti e capii che ai Verdurin bastava sapere che quel tramonto stava fin dentro il loro salotto o la loro sala da pranzo come un magnifico dipinto, un prezioso smalto giapponese atto a giustificare la grossa somma spesa per prendere in affitto, interamente arredata, la Raspellière, ma verso il quale alzavano raramente lo sguardo. La loro occupazione principale lì era vivere piacevolmente, andare a passeggio, mangiare bene, conversare, ricevere amici gradevoli da coinvolgere in divertenti partite a biliardo, buoni pasti, allegre merende. Più tardi, tuttavia, vidi con quale intelligenza avevano imparato a orientarsi in quei luoghi, facendo fare agli ospiti passeggiate non meno inedite della musica che offrivano al loro ascolto. Il ruolo che i fiori della Raspellière, i sentieri lungo il mare, le vecchie dimore, le chiese sconosciute svolgevano nella vita del signor Verdurin era così notevole che chi lo incontrava solo a Parigi e sostituiva per conto suo la vita in riva al mare e in campagna con lussi cittadini stentava a cogliere l'idea che egli si faceva della propria vita e l'importanza che ciò di cui godeva gli conferiva ai propri stessi occhi. Importanza ulteriormente accresciuta dalla convinzione dei Verdurin che la Raspellière, che contavano ad acquistare, fosse una proprietà unica al mondo. La superiorità che il loro amor proprio li induceva ad attribuire alla Raspellière giustificò ai loro occhi il mio entusiasmo, che altrimenti li avrebbe un po' infastiditi con le delusioni che esso comportava, come quelle provocatemi un tempo dall'ascolto della berma, e di cui, parlando con loro, facevo aperta ammissione.